Il punto di Stefano Folli. Il dato di un'astensione molto superiore al 50%, di circa 8 punti superiore alle previsioni più pessimiste, annunciano eventi clamorosi in Sicilia. Prepariamoci a vedere il trionfo della lista antisistema di Beppe Grillo, poi vedremo in quali proporzioni. Prepariamoci a misurare il fallimento definitivo di una classe politica. È il risultato di una gestione amministrativa pessima e continuata negli anni, del cronico non governo dell'isola. Ma è anche il riflesso, questo risultato che si annuncia, di un malessere diffuso, degli scandali la cui eco rimbalza di continuo da Roma, di un quadro nazionale in cui i partiti sono incapaci da tempo di trasmettere un messaggio positivo ai cittadini. La Sicilia fa da battistrada a colpi di scena analoghi che presto potrebbero interessare l'intero territorio nazionale. Ma da oggi in verità non saranno più colpi di scena. Oggi la Sicilia avverte tutti che è in atto lo scollamento, forse definitivo, fra gli italiani e alcune istituzioni che vanno rinnovate. Il segnale da Palermo è forte, drammatico e non si potrà dire di non averlo udito.